io che sono qui non ci sono mai, tra demoni ed eroi e cieli che vorrei. Tu mi vedi qui ma son già di là, poeta per un po', oh angelo per noi. Ora che lo sai resta ancora un po', ora che mi vuoi non andare via. Presto tornerò, presto ci sarò. Io che sembro qui assente per un po', nell'alto vento su, pian piano per un po'. Io che sono via dentro la poesia, un giorno ti dirò tutto quel che ho. Ora che lo sai resta ancora un po', ora che mi vuoi non andare via. Presto tornerò, presto ci sarò. Io che sono qui e non sono mai vapore che va via o brezza che verrà. Io che sono già nel mondo che verrà, nuvola per me o pioggia su di te. Ora che lo sai resta ancora un po', ora che mi vuoi non andare via. Presto tornerò, presto ci sarò.